Ad alta voce. Fabrizio Gifuni legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Il sole non era ancora tutto apparso sull'orizzonte quando il padre Cristoforo uscì dal suo convento di Pescarenico per salire alla casetta dove era aspettato. È Pescarenico una terricciola sulla riva sinistra dell'Adda, o vogliam dire del lago, poco discosto dal ponte. Un gruppetto di case, abitate la più parte da pescatori e addobbate qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare. Il convento era situato, e la fabbrica ne sussiste tuttavia, al di fuori e in faccia all'entrata della terra, con di mezzo la strada che da Lecco conduce a Bergamo. Il cielo era tutto sereno. Di mano in mano che il sole s'alzava dietro il monte, si vedeva la sua luce, dalla sommità dei monti opposti, scendere, come spiegandosi rapidamente, giù per i pendii e nella valle. Un venticello d'autunno, staccando da rami le foglie appassite del gelso, le portava a cadere qualche passo distante dall'albero. A destra e a sinistra, nelle vigne, sui tralci ancor tesi, brillavan le foglie rosseggianti a varie tinte, e la terra lavorata di fresco spiccava bruna e distinta nei campi di stoppie biancastre e luccicanti dalla guazza. La scena era lieta, ma ogni figura d'uomo che vi apparisse rattristava lo sguardo e il pensiero. Ogni tanto si incontravano mendichi laceri e macilenti, o invecchiati nel mestiere, o spinti allora dalla necessità a tender la mano. Passavano zitti accanto al padre Cristoforo, lo guardavano pietosamente, e benché non avesser nulla a sperare da lui, giacché un cappuccino non toccava mai moneta, gli facevano un inchino di ringraziamento per l'elemosina che avevano ricevuta o che andavano a cercare al convento. Lo spettacolo dei lavoratori sparsi nei campi aveva qualcosa d'ancor più doloroso. Alcuni andavano gettando le loro semente rade con risparmio e a malincuore, come chi arrischia cosa che troppo gli preme. Altri spingevano la vanga come a stento e rovesciavano svogliatamente la zolla. La fanciulla scarna, tenendo per la corda al pascolo la vaccherella magra stecchita, guardava innanzi e si chinava in fretta a rubarle per cibo della famiglia qualche erba di cui la fame aveva insegnato che anche gli uomini potevano vivere. Questi spettacoli accrescevano a ogni passo la mestizia del frate, il quale camminava già col tristo presentimento in cuore d'andare a sentire qualche sciagura. Ma perché si prendeva tanto pensiero di Lucia? E perché al primo avviso s'era mosso con tanta sollecitudine come a una chiamata del padre provinciale? E chi era questo padre Cristoforo? Bisogna soddisfare a tutte queste domande. Il padre Cristoforo era un uomo più vicino ai 60 che ai 50 anni. Il suo capo raso, salvo la piccola corona di capelli che vi girava intorno secondo il rito cappuccinesco, s'alzava di tempo in tempo con un movimento che lasciava trasparire un non so che d'altero ed inquieto, e subito s'abbassava per riflessione d'umiltà. La barba, bianca e lunga, che gli copriva le guance e il mento, faceva ancor più risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto, alle quali un'astinenza, già da gran pezzo abituale, aveva assai più aggiunto di gravità che tolto d'espressione. Due occhi incavati erano per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano con vivacità repentina. come due cavalli bizzarri condotti a mano da un cocchiere, col quale sanno per esperienza che non si può vincerla, pure fanno, di tempo in tempo, qualche sgambetto che scontan subito con una buona tirata di morso. Il padre Cristoforo non era sempre stato così, né sempre era stato Cristoforo. Il suo nome di battesimo era Lodovico. Era figliuolo di un mercante che nei suoi ultimi anni, trovandosi assai fornito di beni e con quell'unico figliuolo, aveva rinunziato al traffico e s'era dato a vivere da signore. Nel suo nuovo ozio cominciò a entrargli in corpo una gran vergogna di tutto quel tempo che aveva speso a far qualcosa in questo mondo. Predominato da una tal fantasia, studiava tutte le maniere di far dimenticare che era stato mercante. Avrebbe voluto poterlo dimenticare anche lui. Ma il fondaco, le balle, il libro, il braccio gli comparivan sempre nella memoria, come l'ombra di Banco a Macbeth, anche tra la pompa delle mense e il sorriso dei parassiti. E non si potrebbe dire la cura che dovevano aver quei poveretti per schivare ogni parola che potesse parere allusiva all'antica condizione del convitante. Un giorno, per raccontarne una, sul finir della tavola, nei momenti della più viva e schietta allegria, che non si sarebbe potuto dire chi più godesse, o la brigata di sparecchiare o il padrone d'aver apparecchiato, andava stuzzicando con superiorità amichevole uno di quei commensali, il più onesto mangiatore del mondo. Questo per corrispondere alla Celia, senza la minima ombra di malizia, proprio col candore di un bambino, rispose: io fo l'orecchio del mercante. Egli stesso fu subito colpito dal suono della parola che gli era uscita di bocca. Guardò con faccia incerta alla faccia del padrone, che s'era rannuvolata. L'uno e l'altro avrebbero voluto riprendere quella di prima, ma non era possibile. Gli altri convitati pensavano, ognun da sé, al modo di sopire il piccolo scandalo e di fare una diversione, ma pensando tacevano, e in quel silenzio lo scandalo era più manifesto. Ognuno scansava di incontrare gli occhi degli altri. Ognuno sentiva che tutti erano occupati del pensiero che tutti volevano dissimulare. La gioia per quel giorno se ne andò e l'imprudente, o per parlar con più giustizia lo sfortunato, non ricevette più invito. Così il padre di Lodovico passò gli ultimi suoi anni in angustie continue, temendo sempre d'esser schernito e non riflettendo mai che il vendere non è cosa più ridicola che il comprare e che quella professione di cui allora si vergognava l'aveva pure esercitata per tant'anni in presenza del pubblico e senza rimorso. Fece educare il figlio nobilmente, secondo la condizione dei tempi e per quanto gli era concesso dalle leggi e dalle consuetudini. Gli diede maestri di lettere ed esercizi cavallereschi e morì, lasciandolo ricco e giovinetto. Lodovico aveva contratte abitudini signorili e gli adulatori, tra i quali era cresciuto, l'avevano avvezzato ad essere trattato con molto rispetto. Ma quando volle mischiarsi coi principali della sua città, trovò un fare ben diverso da quello a cui era accostumato. E vide che a voler essere della loro compagnia come avrebbe desiderato, gli conveniva fare una nuova scuola di pazienza e di sommissione, star sempre al di sotto e ingozzarne una ogni momento. Una tal maniera di vivere non s'accordava né con l'educazione né con la natura di Lodovico. S'allontanò da essi indispettito. Ma poi se ne stava lontano con rammarico, perché gli pareva che questi veramente avrebbero dovuto essere i suoi compagni, soltanto li avrebbe voluti più trattabili. Con questo misto di inclinazione e di rancore, non potendo frequentarli familiarmente e volendo pure aver che far con loro in qualche modo, s'era dato a competere con loro di sfoggi e di magnificenza, comprandosi così a contanti inimicizie, invidie e ridicolo. La sua indole, onesta insieme e violenta, l'aveva poi imbarcato per tempo in altre gare più serie. sentiva un orrore spontaneo e sincero per l'angherie e per i soprusi. Orrore reso ancor più vivo in lui dalla qualità delle persone che più ne commettevano alla giornata, che erano appunto coloro coi quali aveva più di quella ruggine. Per acquietare o per esercitare tutte queste passioni in una volta, prendeva volentieri le parti di un debole sopraffatto, si piccava di farci stare un soverchiatore, si intrometteva in una briga, se ne tirava addosso un'altra, tanto che a poco venne a costituirsi come un protettore degli oppressi e un vendicatore dei torti. L'impiego era gravoso e non è da domandare se il povero Lodovico avesse nemici, impegni e pensieri. Oltre la guerra esterna, era poi tribolato continuamente da contrasti interni, perché a spuntarle in un impegno, senza parlare di quelli in cui restava al di sotto, doveva anche lui adoperar raggiri e violenze che la sua coscienza non poteva poi approvare. Doveva tenersi intorno un buon numero di bravacci, e così per la sua sicurezza, come per averne un aiuto più vigoroso, doveva scegliere i più arrischiati, cioè i più ribaldi, e vivere co birboni per amor della giustizia. Tanto che, più d'una volta, o scoraggito dopo una trista riuscita o inquietato per un pericolo imminente, annoiato del continuo guardarsi, stomacato della sua compagnia, in pensiero dell'avvenire, per le sue sostanze che se n'andavano di giorno in giorno in opere buone e in braverie, più d'una volta gli era saltata la fantasia di farsi frate, che a quei tempi era il ripiego più comune per uscir d'impicci. Ma questa, che sarebbe forse stata una fantasia per tutta la sua vita, divenne una risoluzione a causa d'un accidente, il più serio che gli fosse ancor capitato. Andava un giorno per una strada della sua città, seguito da due bravi e accompagnato da un tal Cristoforo, altre volte giovine di bottega e, dopo chiusa questa, diventato maestro di casa. Era un uomo di circa 50 anni, affezionato dalla gioventù a Lodovico, che aveva veduto nascere e che, tra salario e regali, gli dava non solo da vivere, ma di che mantenere e tirar su una numerosa famiglia. Vide Lodovico spuntare da lontano un signor tale, arrogante e soverchiatore di professione, col quale non aveva mai parlato in vita sua, ma che gli era cordiale nemico e al quale rendeva, pur di cuore, il contraccambio, giacché è uno dei vantaggi di questo mondo quello di poter odiare ed essere odiati senza conoscersi. Costui, seguito da quattro bravi, s'avanzava diritto, con passo superbo, con la testa alta, con la bocca composta all'alterigia e allo sprezzo. Tutte e due camminavan rasente al muro, ma Lodovico, notate bene, lo strisciava col lato destro e ciò, secondo una consuetudine, gli dava il diritto, dove mai si va a ficcare il diritto, di non istaccarsi dal detto muro per dar passo a chi si fosse, cosa della quale allora si faceva gran caso. L'altro pretendeva all'opposto che quel diritto competesse a lui come a nobile e che a Lodovico toccasse d'andar nel mezzo, e ciò in forza di un'altra consuetudine, perocché in questo, come accade in molti affari, erano in vigore due consuetudini contrarie, senza che fosse deciso qual delle due fosse la buona, il che dava opportunità di fare una guerra ogni volta che una testa dura s'abbattesse in un'altra della stessa tempra. Quei due si venivano incontro, ristretti alla muraglia, come due figure di basso rilievo ambulanti. Quando si trovarono a viso, il signor tale, squadrando Lodovico a capo alto, col cipiglio imperioso, gli disse in un tono corrispondente di voce: «Fate luogo!» «Fate luogo voi!» rispose Lodovico. «La diritta è mia. Co vostri pari è sempre mia. Se l'arroganza dei vostri pari fosse legge per i pari miei, i bravi dell'uno e dell'altro erano rimasti fermi, ciascuno dietro il suo padrone, guardandosi in cagnesco, con le mani alle daghe, preparati alla battaglia. La gente che arrivava di qua e di là si teneva a distanza a osservare il fatto, e la presenza di quegli spettatori animava sempre più il puntiglio dei contendenti. «Nel mezzo, vile meccanico, o ch'io ti insegno una volta come si tratta co' gentiluomini. Voi mentite ch'io sia vile, tu menti ch'io abbia mentito». Questa risposta era di Prammatica. «E se tu fossi cavaliere come son io», aggiunse quel signore, «ti vorrei far vedere con la spada e con la cappa che il mentitore sei tu. È un buon pretesto per dispensarvi di sostener co' fatti l'insolenza delle vostre parole. Gettate nel fango questo ribaldo», disse il gentiluomo voltandosi a suoi. «Vediamo», disse Lodovico, dando subitamente un passo indietro e mettendo mano alla spada. «Temerario», gridò l'altro, sfoderando la sua, «io spezzerò questa quando sarà macchiata del tuo vil sangue». Così s'avventarono l'uno all'altro. I servitori delle due parti si slanciarono alla difesa dei loro padroni. Il combattimento era diseguale, e per il numero e anche perché Lodovico mirava piuttosto a scansare i colpi e a disarmare il nemico che ad ucciderlo, ma questo voleva la morte di lui a ogni costo. Lodovico aveva già ricevuto al braccio sinistro una pugnalata d'un bravo e una sgraffiatura leggera in una guancia, e il nemico principale gli piombava addosso per finirlo. Quando Cristoforo, vedendo il suo padrone nell'estremo pericolo, andò col pugnale addosso al signore. Questo, rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo passò con la spada. A quella vista Lodovico, come fuor di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore, il quale cadde moribondo, quasi a un punto col povero Cristoforo. I bravi del gentiluomo, visto che era finita, si diedero alla fuga malconci. Quelli di Lodovico, tartassati e sfregiati anche loro, non essendovi più a chi dare e non volendo trovarsi impicciati nella gente che già correva, scantonarono dall'altra parte. E Lodovico si trovò solo, con quei due funesti compagni ai piedi, in mezzo a una folla. «Com'è andata? È uno? No, son due! Gli ha fatto un occhiello nel ventre! Chi è stato l'ammazzato? Quel prepotente! Oh, Santa Maria, che sconquasso! Chi cerca, trova! Una le paga tutte! Ha finito anche lui! Che colpo! Vuole essere una faccenda seria, eh? E quell'altro disgraziato! Misericordia, che spettacolo! Salvatelo, salvate! Sta fresco anche lui! Vedete com'è concio! Butta sangue da tutte le parti! Scappi! Scappi! Non si lasci prendere!» Queste parole, che più di tutte si facevano sentire nel frastuono confuso di quella folla, esprimevano il voto comune, e col consiglio venne anche l'aiuto. Il fatto era accaduto vicino a una chiesa di cappuccini, asilo, come ognuno sa, impenetrabile allora a birri e a tutto quel complesso di cose e di persone che si chiamava la giustizia. L'uccisore ferito fu quivi condotto o portato dalla folla, quasi fuor di sentimento, e i frati lo ricevettero dalle mani del popolo, che glielo raccomandava, dicendo: «È un uomo da bene che ha freddato un birbone superbo, l'ha fatto per sua difesa, c'è stato tirato per i capelli». Lodovico non aveva mai, prima d'allora, sparso sangue. E benché l'omicidio fosse a quei tempi cosa tanto comune che gli orecchi d'ognuno erano avvezzi a sentirlo raccontare e gli occhi a vederlo, pure l'impressione che egli ricevette dal veder l'uomo morto per lui e l'uomo morto da lui fu nuova e indicibile. Fu una rivelazione di sentimenti ancora sconosciuti. Il cadavere del suo nemico, l'alterazione di quel volto, che passava in un momento dalla minaccia e dal furore all'abbattimento e alla quiete solenne della morte, fu una vista che cambiò in un punto l'animo dell'uccisore. Strascinato al convento, non sapeva quasi dove si fosse né cosa si facesse,